24 mattino. Buongiorno da Laura Bettini, ben ritrovati per 24. Ben ritrovati per 24 mattino. Come sempre adesso è il momento della rassegna stampa con Lionello Mancini. Noi ci ritroveremo alle 8:15 a Bianco o Nero. Oggi affronteremo il caso dell'ormai probabile no del presidente brasiliano Lula da Silva all'estradizione in Italia dell'ex terrorista rosso Cesare Battisti in carcere in Brasile. Una decisione che Lula comunicherà in giornata, ma comunque decida, noi vi chiediamo: Battisti dovrebbe secondo voi tornare in Italia e scontare la sua pena, che ricordiamo sono 4 ergastoli per altrettanti omicidi commessi a fine degli anni 70. Ci ritroviamo per parlarne in Bianco e Nero. Intanto Lionello Mancini. In primo piano. Buongiorno, un buongiorno a tutti, l'ultimo buongiorno da parte mia per quest'anno, e questa rassegna stampa di oggi ha 2 o 3 temi abbastanza ricorrenti. Uno è l'accordo di Pomigliano, il nuovo contratto firmato da 2 dei 3 sindacati dei metalmeccanici, cioè solamente dalla FIM e dalla UILM, ma non c'è la FIOM, e poi un grande rilievo, un grande risalto viene dato anche al tema che diceva proprio adesso Laura, e cioè alla probabile mancata estradizione di Battisti dal Brasile, che non verrà quindi restituito all'Italia dove dovrebbe scontare 4 ergastoli, e anche l'attentato alla sede della Lega a Gemonio, un attentato che ha una deflagrazione molto politica. Gli ordigni esplosi vengono chiamati ordigni artigianali, petardi, bombe carta, eccetera, quindi non è che ci siano danni alle persone e neanche grossi danni alle cose, ma l'effetto politico di questa vicenda viene amplificato giustamente dalla Padania e dal partito di Bossi, che in un'intervista dice vogliono bloccare la Lega e punta anche il dito contro il suo alleato, cioè contro il Popolo delle Libertà, perché dice responsabile di un attentato come questo anche chi ha detto no a nuove elezioni. La palude romana, parola di Bossi, risponde con il terrorismo. Quindi leggiamo proprio dalla prima pagina della Padania l'articolo che riporta queste dichiarazioni di Bossi, e dice, è firmato Carlo Passera: se il clima politico-sociale si sta sempre più avvelenando, vi sono mandanti e responsabilità ben precise. Umberto Bossi non getta benzina sul fuoco commentando tra le mura amiche di via Bellerio a Milano quei 2 ordigni che nella notte hanno fatto tremare altre mura amiche, quelle della casa di Gemonio, che si trova ad appena 100 metri dalla sede leghista vandalizzata. I mandanti, intanto, non nomi e cognomi. Detto in altre parole, questa è la palude romana che manda segnali. Responsabile di tutto questo è anche chi non ha voluto mandare il paese alle elezioni. Allora, noi sappiamo dalle ultime vicende della scissione del Popolo delle Libertà con la nascita del partito di Fini, che chi ha cercato in tutti i modi di evitare le elezioni è per l'appunto il Popolo delle Libertà. Le prime pagine della Padania sono tutte dedicate ovviamente a questo episodio. C'è anche una foto e delle dichiarazioni di Maroni, il ministro dell'interno leghista, che dice: noi non ci facciamo intimidire da questi intolleranti anonimi e vigliacchi. All'interno delle 2 pagine 4 e 5 viene ripetuto questo concetto della prima pagina: Bossi, chi non vuole il cambiamento si affida alla violenza, responsabile anche chi ha detto no a nuove elezioni. Solidarietà bipartisan dal mondo politico da Fini alla Finocchiaro, dall'IDV, dall'Italia dei Valori all'UDC. E poi, va bene, ovviamente c'è un cavalcare emotivo questa vicenda. Bossi che dice: siamo milioni, chi la dura la vince. Calderoli: preparate colla, pennelli, manifesti e altro, se Bossi lo chiede, cioè, come dire, pronti a rispondere con la propaganda e con l'azione politica. Questo dunque è l'attentato alla Lega con i suoi risvolti politici, più all'interno del centrodestra ovviamente che non del centrosinistra. Il centrosinistra invece sta vivendo con un qualche patema l'altro grosso tema che vi segnalavo sulle prime pagine dei giornali, ovvero questo nuovo contratto a Pomigliano. Questa è l'apertura anche del Sole 24 Ore. il contratto di Pomigliano, firmata l'intesa da FIM, UILM, UGL e FISMIC. La FIOM dichiara 8 ore di sciopero, investimenti al via, aumento medio di 30 euro. Galli, l'economista della Confindustria, lo definisce un accordo innovativo, ok al tavolo sulla rappresentanza. Vi leggo questo breve riassunto della prima pagina del Sole, poi ci torneremo, mi pare ho visto uno schema anche grafico su un altro giornale. Aumenti retributivi a regime di 360 euro l'anno, circa 30 euro al mese. Un nuovo inquadramento professionale aggiornato alle nuove condizioni di lavoro, con l'esclusione dal sistema di rappresentanza dei sindacati non firmatari dell'intesa. Sono questi i punti chiave del nuovo contratto dello stabilimento di Pomigliano d'Arco, firmato ieri dalla Fiat con FIM, UILM, UGL, Metalmeccanici, FISMIC e l'Associazione dei Quadri. Il nuovo assetto contrattuale riguarda i 4.600 lavoratori della Fabbrica Italia Pomigliano, che verranno assunti a partire da gennaio per produrre la nuova Panda. Per quanto riguarda l'inquadramento professionale, si passa dai 7 livelli previsti dal contratto nazionale a 5 gruppi professionali, quindi non livelli, 5 gruppi professionali con fasce intermedie al loro interno per facilitare gli avanzamenti professionali. Intanto, contro l'accordo preparato da Mirafiori, separato di Mirafiori, per venerdì 28 gennaio la FIOM ha indetto uno sciopero di 8 ore dei metalmeccanici. Ecco, il direttore generale di Confindustria Galli definisce innovativo l'accordo stipulato con la Fiat da questi sindacati. Ecco, divide la sinistra questo accordo, perché la FIOM notoriamente è un sindacato che raccoglie la parte, diciamo, della sinistra degli operai, e quindi una qualche mal di pancia con il Partito Democratico evidentemente si manifesta e si è manifestato, tant'è vero che c'è una polemica tra Fassino, troveremo una sua intervista se non erro su Repubblica, una sua intervista che dice: beh, la FIOM ha sbagliato a non firmare questo accordo perché bisogna invece cambiare le cose anche nel mondo del lavoro. Lo leggeremo con magari più ampiezza più avanti nel secondo blocco di questa rassegna stampa, però ho il tempo per leggere questa battuta. Dice, siamo alla Repubblica, l'intervista a Fassino: un errore non firmare, dice Fassino, conosco le fabbriche meglio di loro, dice replicando a Landini, basta ora arroccarsi. Alla battutaccia di Maurizio Landini risponde con fastidio: conosco le fabbriche metalmeccaniche da molto più tempo di lui, e non solo quelle. Poi conferma: voterei a favore dell'accordo di Mirafiori. L'ex segretario dei DS Piero Fassino, candidato alle primarie per il sindaco di Torino, dice che la FIOM ha un atteggiamento votato alla sconfitta e ricorda l'epoca in cui era delegato del PC per le fabbriche torinesi. In quegli anni ho imparato una lezione che Landini sembra ignorare. Come si diceva in sindacalese, di fronte ai problemi veri non si fugge, bisogna sporcarsi le mani. Questo dunque Fassino. L'intervistatore gli chiede: lei direbbe sì nell'interesse dei lavoratori, significa che la FIOM non sta difendendo quegli interessi? Non mi permetto di fare una tale affermazione, risponde Fassino, ma vedo che la FIOM si è arroccata. È molto velleitario alzarsi dal tavolo e non firmare. Così il sindacato non difende i lavoratori, anzi li espone a un rischio maggiore. La tutela delle rigidità non funziona più. Oggi ci vuole il governo delle flessibilità. La FIOM dice: 10 anni fa abbiamo sottoscritto degli accordi e non si toccano. Ma 10 anni fa non c'erano la Cina, l'India, il Brasile. Questo dunque Piero Fassino sull'accordo di Pomigliano. Vi lascio ora alla pausa pubblicitaria e riprendiamo subito dopo. In primo piano. Eccoci di nuovo insieme, avevamo lasciato la Repubblica con l'intervista di Fassino molto critica verso la FIOM. La Repubblica è uno dei giornali che oggi apre sull'accordo di Pomigliano, evidentemente da tutti interpretato come un passaggio veramente importante nel mondo delle relazioni sindacali. La Repubblica, dicevo, apre con questo titolo: Pomigliano battaglia dopo la firma. via libera alla Newco Fiat. Newco significa New Company, cioè questa nuova forma, questa nuova società che assumerà questi lavoratori. La FIOM, sciopero generale il 28 gennaio. Il Lingotto, le nuove regole applicate da subito in tutte le aziende. Landini ai leader del PD: prima di parlare andate a lavorare in fabbrica. Questo è appunto, diciamo, la frase a cui poi risponde l'intervista di Piero Fassino. Anche sempre su Repubblica, il titolo bombe alla Lega, colpa di chi nega il voto, le virgolette sono appunto attribuite al discorso, all'intervista che ha fatto Bossi alla Padania. Bossi sull'attentato egemonio: non sarebbe successo se fossimo andati alle elezioni. Il premier: molti finiani con me. Cioè, in realtà la frase è: molti finiani stanno tornando nel partito, nel Popolo della Libertà. Al TAN, sulla prima pagina di Repubblica, dedica la sua vignetta appunto all'accordo di Pomigliano. Firmato il contratto, cippa, dice uno dei due protagonisti, vestito da metalmeccanico con la chiave inglese in mano, e l'altro risponde: questa era la dolce carota, adesso aspettiamo il saporito bastone. Ancora sulla prima pagina della Repubblica, l'ultima promessa di Berlusconi: Napoli sarà pulita entro Capodanno. Oggi è il 30, vediamo come funzionerà, e forse riusciamo anche a vedere che tipo di percorso è stato immaginato. E vediamo, poi va bene la come si dice, Tiziana Ferrario, la collega che legge da tanti anni il TG1, che è stata reintegrata nel suo posto di mezza busta per leggere, e quindi una sentenza che va contro la decisione del direttore Minzolini. Brevemente sui rifiuti, allora pagina 16-17 di Repubblica: rifiuti via al piano di Capodanno, Berlusconi, così puliremo Napoli. Il premier: scendo in campo io, impianti pronti in pochi mesi. Vabbè, in pochi mesi non è Capodanno, però comunque insomma, forse Capodanno si riferisce alla ripulitura della città, e poi gli impianti pronti in pochi mesi. C'è una quantificazione, grafica dei rifiuti. Dunque, una tonnellata di rifiuti ha un volume di 10.000 metri cubi, e sono praticamente, ci sono in strada 15.000 tonnellate di rifiuti pari a 150.000 metri cubi. Se queste immondizie non fossero accumulate ma sparse su un unico strato, dice la Repubblica, riempirebbero 70 campi di calcio, quindi una quantità veramente impressionante. I punti del piano sono: per i prossimi 5 giorni 3 province campane ospiteranno quote dei rifiuti accumulati nella strada di Napoli. Via libera alle intese con le 6 regioni, Puglia, Toscana, Emilia, Molise, Marche e Lazio, che si sono offerte di aiutare Napoli. Dunque, debiti, già, perché c'è anche un problema di denaro. Il 4 gennaio il governo, assecondando una richiesta delle province, esaminerà il nodo dei debiti dei comuni nei confronti dei consorzi e delle province stesse. I commissari: si discuterà della possibilità di nominare, prima della conversione del decreto, i commissari per le discariche e gli inceneritori. Vi ricordo che la gestione dell'emergenza rifiuti è stato anche uno dei motivi dello scontro tra Mara Carfagna e il coordinatore del PDL della campagna, Cosentino, su cui la Carfagna aveva poi minacciato di uscire dal governo. Quindi è di nuovo il governo che si impegna direttamente con questo accordo a Palazzo Chigi. L'opposizione intanto dice: basta raccontare favole, il governo prenda atto del fallimento. Un altro fallimento che riporta solo Repubblica, ed è veramente grave, a pagina 25, giustizia, stop alle banche dati. La rivolta delle procure sarà paralisi. Il ministero: mancano i fondi per i servizi informatici. C'è questo articolo dedicato a questo tema che non ho trovato su altri giornali. Il rischio di bloccare milioni di atti giudiziari. secondo l'associazione magistrati è una sconfitta per i cittadini. Vi leggo solamente l'inizio di questo articolo per spiegare di cosa si tratta. Con l'anno nuovo i tribunali e le procure di tutta Italia dovranno tirar fuori dalla soffitta i vecchi archivi cartacei e rimettere in sesto le fotocopiatrici. I servizi di manutenzione e assistenza ai sistemi informatici sono sospesi. Questo è il contenuto di una circolare che il Ministero della Giustizia ha inviato a presidenti di corte d'appello e procuratori generali e che rischia di bloccare milioni di atti giudiziari. Il motivo? Semplicissimo. I soldi non ci sono. La comunicazione che porta la firma di Stefano Aprile, direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di Via Arenula, parla di, virgolette, mancata assegnazione delle risorse finanziarie che rende necessario procedere alla revoca. Questo dunque l'allarme lanciato su Repubblica. D'altra parte, ieri Tremonti ha ribadito, a questo lo riportano con più o meno evidenza però un po' tutti i giornali, Tremonti ha detto che continua l'austerity nei ministeri, qui dalla carta ai toner alle macchine bisogna stare attenti a quello che si spende. Restiamo su Repubblica. Un altro tema sviluppato con una certa ampiezza è quello, come dicevo, del caso Battisti. Il caso Battisti, ovvero il caso del pluriassassino condannato in via definitiva in Italia, condannato a 4 ergastoli, che il Brasile non intende restituire all'Italia. Battisti, l'ultima scelta di Lula, pronto l'asilo per l'ex terrorista, l'asilo politico ovviamente. Oggi l'annuncio. Va protetta la sua incolumità, proteste dell'Italia. Cioè, secondo Lula, se Battisti viene in Italia rischia la sua incolumità fisica, una idiozia veramente totale. Ma come spiega Repubblica, in un articolo di Omero Ciai, commesse militari e orgoglio nazionale, così l'estradizione alla fine è sfumata. Roma ha scelto la Realpolitik. Non risulta che Berlusconi abbia mai chiarito direttamente la questione con Lula. Cioè, al di là delle frasi, delle motivazioni ufficiali, c'è ovviamente in ballo un grosso business, di specialmente quello di commesse militari. E in ogni caso, senza rifare tutta la storia di Battisti, se ne parlerà anche dopo, però vi leggo questo virgolettato dell'articolo di Omero Ciai su Repubblica, aperte virgolette, scordatevelo, quelli del PT, il Partito dei Lavoratori di Lula, non restituiranno mai all'Italia un terrorista rosso, finché a Roma nel governo ci saranno ministri ex fascisti. Si disse, chiuse virgolette, ci disse all'inizio di questa vicenda un giornalista brasiliano ben introdotto a Planalto, la sede della presidenza a Brasilia. Poi partì la triangolazione con Parigi, con la giallista Fred Varga, principale animatrice del Comitato di Difesa di Battisti, che grazie alla First Lady Carla Bruni riuscì a farsi ricevere dal ministro della giustizia brasiliano Tarso Genro e a raccontargli la versione della gauche francese sugli anni di piombo italiani. La scelta di un avvocato, Luis Eduardo Grinal, molto vicino al partito del presidente, e il coinvolgimento a far lobby del senatore Eduardo Suplicy. Tutto vero, ma è anche vero che il governo Berlusconi non ha fatto granché per spiegare ai brasiliani che avevano scambiato un assassino per un perseguitato politico del quale dovevano difendere i diritti umani. Questo dunque quello che si legge su Repubblica a proposito del caso Battisti. Repubblica dedica anche una pagina con una cartina del mondo che ci illustra dove sono le vite segrete o i rifugi dorati, quei reduci degli anni di piombo cui nessuno dà più la caccia, e c'è l'elenco dal Casimirri coinvolto nel caso Moro, a Zorzi coinvolto invece nella strage di Piazza Fontana, Giorgio Pietro Stefani condannato a 22 anni per il delitto calabresi, lo Iacono, un altro membro delle Brigate Rosse che ora è cittadino svizzero, Marina Petrella, altra brigatista rossa che è latitante credo in Francia, ancora Lollo, eccetera. Insomma, uno spaccato del passato, ovviamente su questa vicenda è durissimo il figlio di una delle vittime, l'orefice Torreggiani, che fu ucciso appunto durante una rapina a Milano e che durante quella rapina un colpo raggiunse per sbaglio il figlio di Torreggiani, il quale da allora, fine anni 70, è su una seggiola a rotelle. Ovviamente le sue reazioni sono durissime. E bene, direi di lasciare la Repubblica e di passare senz'altro al Corriere della Sera. Corriere della Sera, vorrei segnalarvi e chiuderemo questa rassegna stampa poi tornando alla Sole 24 Ore, perché il Corriere della Sera riporta un articolo durissimo, quasi disperante in prima pagina. Ecco, vedi, io dico disperante, prendo il giornale, in effetti il titolo è Un disperato qualunquismo. L'articolo di Ernesto Galli della Loggia, Dite la verità al paese, ed è un articolo che mi appresto a leggere, non tutto perché è piuttosto lungo, ma perlomeno a riassumervelo. Poi invece sul Sole 24 Ore torniamo, perché l'articolo di fondo affidato a Giuliano Amato è un articolo, se vogliamo, che infonde un po' più di speranza. Il titolo dell'articolo di Amato è Saper dialogare è il vero segreto della democrazia, è nella serie Pensieri di fine anno, e in effetti devo dire che, come sentirete quando lo leggeremo, dà qualche indicazione molto generale, però che fa molto riflettere e, come dire, e che rende più possibile una svolta dalla situazione in cui siamo, situazione in cui Galli della Loggia proprio intinge la penna nell'amaro fiele. Ve lo leggo. Non vanno bene le cose per l'Italia. Prima che ce lo dicano le statistiche, comunicandoci per esempio un dato lugubre, che nel 2010 il reddito pro capite degli italiani sarà in termini reali inferiori a quello del 2000, ce lo dice una sensazione che ormai sta dentro ciascuno di noi e ogni giorno si rafforza. E qui c'è un elenco veramente terribile, ve ne leggo alcuni passi. Basta che ci guardiamo intorno per scorgere un panorama sconfortante. Abbiamo un sistema di istruzione da rendimento assai basso, una burocrazia sia centrale che locale pletorica e inefficientissima, una giustizia tardigrada e approssimativa, una delinquenza organizzata che altrove non è uguali. Le nostre grandi città con le periferie tra le più brutte del mondo sono largamente invivibili e quasi sempre prive di trasporti urbani moderni, metropolitane. La rete stradale e autostradale è largamente inadeguata e quella ferroviaria, appena ci si allontana dall'alta velocità, è da terzo mondo. La rete degli acquedotti è un colabrodo, il nostro paesaggio è sconvolto da frane e alluvioni rovinose, a ogni pioggia intensa, mentre musei, siti archeologici e biblioteche versano in condizioni semplicemente penose. Per finire, e invece non finisce, come vedrete, perché va avanti, tutto ciò che è pubblico, dai concorsi agli appalti, è preda di una corruzione capillare. C'è poi la nostra condizione economica, vedi che non finisce. Abbiamo contemporaneamente le tasse e l'evasione fiscale tra le più alte d'Europa, mentre gli operai italiani ricevono salari ben più bassi della media. Il nostro sistema pensionistico è fra i più costosi d'Europa, malgrado le numerose riforme già fatte. Siamo strangolati da un debito pubblico, il pagamento dei cui interessi ci impedisce di intraprendere qualunque politica di sviluppo. Nessuno dall'estero viene a fare nuovi investimenti in Italia, ma gruppi stranieri mettono gli occhi su questo, su quanto resta di meglio del nostro apparato economico e produttivo. Nel frattempo il processo di deindustrializzazione non si arresta e la disoccupazione, specie giovanile, resta alta. Qui mi interrompo per fortuna perché c'è il traffico e allora passo la linea, ma poi andremo avanti con questo articolo, perché il problema che solleva Ernesto Galli della Loggia è che nessuno dice queste cose agli italiani. In primo piano. Eccomi di nuovo qui, purtroppo devo riprendere con Galli della Loggia, che ha elencato e il cui articolo di prima pagina del Corriere della Sera ho appena letto, almeno in larghe parti. E dice Galli della Loggia: nessuno di questi mali ha un'origine recente, lo sappiamo bene, non paghiamo cioè per errori di oggi o di ieri. Oggi cominciamo a capire che qualche tempo fa, quando, nel 92-93, un decennio dopo con l'adozione dell'euro, si è chiuso un lungo capitolo della nostra storia, nel quale siamo diventati sì una società moderna, ma pagando prezzi sempre più elevati. E più avanti dice ancora: lo sappiamo che le cose stanno così, ce ne accorgiamo ogni giorno che l'Italia perde colpi, non ha alcuna idea di sé e del suo futuro, ma ci limitiamo a pensarlo tra noi e noi, a confidarcelo nelle conversazioni private. Avvertiamo con chiarezza che avremo bisogno di bilanci sinceri e impietosi, fatti in pubblico, di un grande esame di coscienza, di poterci specchiare finalmente e collettivamente nella verità. Prosegue nella pagina interna. E invece, dice, chi dovrebbe parlare resta in silenzio. Resta in silenzio il discorso pubblico della società italiana su se stessa. Ma soprattutto resta in silenzio la politica, divisa tra lo sciropposo ottimismo di Berlusconi e il suo patetico che pensi mi da un lato, e la vacuità dei suoi oppositori dall'altro, Bersani, dall'altro. Bersani, La Russa, Bondi, Fini, Vendola, Verdini, Di Pietro, Casini e chi più ne ha più ne metta credono di parlare al paese con le loro dichiarazioni, le loro interviste, i loro attacchi a questo o a quello, i loro progetti di alleanze, di controalleanze e di governi. Non sanno, sempre Galli della Loggia dal Corriere della Sera, non sanno che in realtà se ne stanno guadagnando solo un disprezzo crescente, ne stanno solo accrescendo la distanza dal loro traballante palcoscenico. Sempre più, infatti, la loro produzione quotidiana di parole suona uguale a se stessa, ripetitiva, irreale, ridicola. Mai una volta che uno di essi proponga al paese una soluzione concreta per qualche problema concreto. Mai, anche se a loro scusante va detto, ce n'è veramente per tutti, che nel solcare quotidianamente l'oceano del nulla sono aiutati da un sistema dell'informazione anch'esso per lo più perduto dietro la chiacchiera, il retroscena, il titolo orribilmente confidenziale su Tonino o Gianfri, il mortifero articolo di costume. Insomma, dice che lui è disperato e conclude: per l'Italia è forse iniziata una corsa contro il tempo, ma non è affatto sicuro che ce ne resti ancora molto. Raramente ho letto un articolo così critico, così pesante. Sicuramente ci saranno delle risposte, perché le critiche non le risparmia a nessuno e sono veramente durissime. Volevo sul Corriere della Sera andare, ecco, a proposito di politica del nulla, allora, a pagina 8 e 9 del Corriere abbiamo due pagine sul governo. Berlusconi: tanti finiani delusi pronti a tornare con noi. La replica alla Lega: mai visto un pessimista ottenere risultati. Quindi non bisogna essere pessimisti. Poi ancora il Premier, due punti: subito la riforma fiscale, gli imprenditori non ne possono più. Tremonti in campo, al lavoro i quattro tavoli istituiti al Ministero, un impegno, quello della riforma fiscale, che voglio mantenere in breve tempo. Anche il responsabile dell'economia considera centrale la questione della riforma del sistema tributario. Il capo dell'esecutivo, questo è uno dei sommari dell'articolo di Verderami, ostenta ottimismo: entro gennaio alle Camere ci sarà una maggioranza più larga e solida. Dopodiché, dentro il Popolo delle Libertà, cosa succede? Sondaggio PDL, quindi del Popolo delle Libertà, anti-bondi. Poi interviene il Cavaliere. La solidarietà dei promotori della libertà di Michela Vittoria Brambilla, ottimo ministro e persona fidata del Premier. In pratica hanno fatto un sondaggio dentro il Popolo delle Libertà. Il 57,1% degli intervistati, diciamo di chi ha risposto al sondaggio interno al partito, dice: Bondi si dimetta. In poche ore il risultato è ribaltato. Il 75% dei deputati e senatori del Popolo delle Libertà lo invita a resistere. Quindi diciamo che è una cosa... Ecco, il Corriere della Sera spiega abbastanza bene, e poi lo lasciamo per tornare appunto al Sole 24 Ore, spiega piuttosto bene la svolta che tutti i giornali riportano con maggiore o minore rilievo. In Vaticano l'autority antiriciclaggio, il motu proprio di Benedetto XVI verso la nomina del Cardinal Nicora. Il motu proprio, cioè Benedetto XVI ha detto: vabbè, sapete che c'è, adesso basta con questa faccenda, che il Vaticano non rientra, non ha recepito la legislazione antiriciclaggio, e quindi adesso bisogna che se la dia per avere, diciamo, una dei rapporti più normali con gli altri paesi. Nuove misure per l'ingresso della Santa Sede nella Unione Europea, le nomine allo IOR e la riconferma di Gotti Tedeschi, che è appunto il presidente dello IOR, è nominato di recente e che è finito suo malgrado in questa vicenda dell'inchiesta romana che ha visto sequestrati 23 milioni, se non ricordo male la cifra, di euro, proprio perché era una somma ed era un flusso di denaro che non aveva rispettato le norme antiriciclaggio internazionali. D'altra parte il Vaticano non ha mai aderito a queste norme antiriciclaggio e adesso il Papa ha detto vabbè, adesso da questo momento invece si cambia. Dunque il Sole 24 Ore, abbiamo ancora 2 o 3 minuti, Giuliano Amato che scrive nell'articolo di prima pagina e con questa lettura praticamente chiudiamo la rassegna stampa. Una società meno divisa e capace di costruire un futuro comune è il vero sogno di Natale di fine anno, ha scritto giorni fa su queste colonne Bruno Forte, e io sono d'accordo con lui. Non so se lo sono tutti, sono tanti i malati che si innamorano della loro malattia. So per certo che la divisione e l'aggressività interna in cui soffriamo non sono una malattia solo italiana, sono il frutto di cambiamenti profondi che hanno investito e pericolosamente adulterato una buona parte delle democrazie avanzate. Quindi il problema che noi, su cui noi ci dibattiamo, di questa quadro politico e sociale lacerato, quello che descriveva poco fa Galli della Loggia, in realtà, dice Amato, sono problemi che riguardano tutte le società avanzate. E dice, indica alcuni di questi mali. Il mese scorso, dice, la School of Government della LUIS ha organizzato un seminario internazionale sul tema governare le democrazie. Ebbene, le differenze nelle forme di governo a cui attribuiamo così tanta importanza nelle nostre discussioni, la differenza fra governi presidenziali e governi parlamentari, o quella fra governi del primo ministro e governi più collegiali, sembravano tutte più o meno riforme irrilevanti davanti alle comuni difficoltà che sono emerse. E le difficoltà sono quelle di conflitti politici che estraggono dalla società interessi, sentimenti e orientamenti diversi, li radicalizzano facendone bandiere sventolanti di confronto identitario e li rendono così non più componibili. E qui poi passa ad analizzare questi temi. Che cosa abbiamo fatto, dice, per meritarci questo? E quando dice meritarci non parla degli italiani, parla delle società avanzate occidentali. Per meritarci questo e come ci siamo arrivati? Ci sono ovviamente delle specificità nazionali, ma ci sono anche delle grandi tendenze comuni. La prima investe la religione, che era un tempo di fronte primaria di valori comuni accomunanti delle nostre società, che negli ultimi decenni ha visto restringersi la sua presa conformativa dei comportamenti individuali e collettivi e ha reagito accentuando l'intransigenza dirimente delle sue posizioni. Ancora, oltre la religione, Amato indica l'indebolimento dei partiti che per decenni avevano reso possibile il governo delle nostre società e poi anche il ruolo dei mass media che ha sostituito l'organizzazione dei partiti con nella comunicazione politica. Amato indica anche le strade, affrontando questi temi nelle società si riesce forse a ricomporre la situazione, ma bisogna lavorare e lavorare molto. Io spero che Amato dia dei consigli che qualcuno seguirà anche nel nostro paese. Con questo faccio a tutti gli auguri per un felice 2011, ringrazio Filippo Oreggi in regia e vi saluto. 24 mattino, l'intervista. Buongiorno, sono le 8:20 minuti, ben ritrovati da Laura Bettini. L'intervista di oggi sarà con Felice Floris, guida del Movimento dei Pastori Sardi. Lo stiamo disperatamente cercando, ma sicuramente nei prossimi istanti risponderà al telefono come ci ha promesso. Dicevamo, guida del Movimento dei Pastori Sardi. Ricorderete, da qualche mese i pastori sardi sono in agitazione, in grande protesta per motivi che chiariremo tra poco con lo stesso Felice Floris. Adesso adesso però il fermento si sposta anche sul trattamento che questi pastori hanno ricevuto una volta sbarcati a Civitavecchia 2 giorni fa. Cos'è successo? Un gruppo di loro, di rappresentanti appunto di questo movimento, scendeva dal traghetto, intendeva andare a Roma, dicono loro, per partecipare, per indire anzi una conferenza stampa in cui parlare dei loro problemi, ma anche parlare di questo movimento che dovrebbe ampliarsi a tutti i paesi del Mediterraneo. Ebbene, lì sono stati invece fermati dalla polizia in modo forse eccessivamente brutale. Questo poi lo chiarirà la Procura della Repubblica di Civitavecchia, che sulla vicenda ha aperto 2 inchieste. Questa notizia proprio di ieri. Una nei confronti di 3 pastori che sono stati denunciati per manifestazione non autorizzata e resistenza pubblico ufficiale, e la seconda invece al momento contro ignoti per verificare il comportamento delle forze dell'ordine. Mentre attendiamo Felice Floris al telefono, vi ricordo anche qual è il tema del bianco o nero di oggi. Oggi il presidente del Brasile, Lula da Silva, si pronuncerà sull'estradizione o meno in Italia dell'ex terrorista rosso dei PAC, Cesare Battisti, attualmente in carcere in Brasile, e sembra quasi scontato il no alla estradizione. Noi vi chiediamo che ne pensate. Battisti deve tornare in Italia e scontare i 4 ergastoli inflittigli per altrettanti omicidi commessi alla fine degli anni 70, oppure no? No, perché sono trascorsi troppi anni, perché è tempo di riconciliazione nazionale, perché condividete le incertezze del governo brasiliano, che sono tante e di diverso tipo, sui processi che sono stati svolti in Italia in quegli anni, sui rischi per la vita di Battisti se tornasse in Italia, sulla pena stessa, sull'ergastolo che in Brasile non è contemplato. Per votare vi ricordo c'è il nostro sito internet radio24.it, ma sarà aperto anche il numero verde 800 24 00 24 oppure gli sms al 349 238 6666. Ospiti in studio saranno il nostro Daniele Biacchessi, grande esperto di quel periodo degli anni di piombo. Ci sarà anche un altro nome ben noto agli ascoltatori di questa radio, Giuseppe Cruciani, che però parteciperà alla trasmissione in veste di autore del volume Gli amici del terrorista, chi protegge Cesare Battisti. E poi Piero Sansonetti, giornalista per tanti anni, direttore di Liberazione, direttore di Liberazione, e questo è il nostro panel, al quale si aggiungerà anche il figlio di una delle vittime di Battisti, Alberto Torregiani, il figlio di Pierluigi Torregiani, il gioielliere ucciso a Milano. Ci prendiamo una pausa nell'attesa che Felice Floris ci risponda al telefono, perché al momento ancora non è all'apparecchio, e poi ci ritroviamo. 24 mattino. Le 8:26 minuti, Felice Floris è finalmente al telefono con noi, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei guida il movimento dei pastori sardi, noi purtroppo abbiamo pochi minuti perché l'abbiamo cercata disperatamente ma non ci trovavamo, ma vogliamo almeno sapere quali sono le motivazioni della protesta che state portando avanti ormai da mesi. Beh, le motivazioni sono semplici, sono le motivazioni di un settore che ormai non riesce più ad andare avanti. Il problema è che non stiamo parlando di un settore marginale, ma stiamo parlando di un settore importante, fondamentale per la Sardegna. Stiamo parlando di decine di migliaia di aziende che rischiano la chiusura, rischiano l'uscita dal mercato. Stiamo parlando di un comparto che produce economia, produce beni alimentari e soprattutto produce qualità ambientale, perché il territorio della Sardegna è un territorio vasto e senza i pastori questo ambiente andrebbe distrutto. Noi stiamo facendo questa battaglia da molti mesi, certo. Stiamo cercando così di adesso, come l'intenzione che era quella, il nostro viaggio a Roma, quella di lanciare un progetto per allargare la nostra protesta, cioè uscire fuori da un localismo regionale sardo e allargarla un po' a tutto il Mediterraneo. E quindi qui l'idea di convocare questa conferenza stampa in cui presentare un movimento mediterraneo. Esatto. Però non siete riusciti in questo. La pastorizia. Sì, non siete riusciti però ad arrivare fino a Roma, siete stati fermati prima. Lei conferma, non avevate intenzioni, diciamo, aggressive? Ma assolutamente, a seguito nostro c'erano donne, c'erano ragazzi, c'erano anziani, era una delegazione rappresentativa di quello che è un po', diciamo, un po' la struttura della pastorizia e del movimento. Volevamo lanciare questo grande progetto molto importante, perché i nostri problemi sono problemi che hanno anche gli altri pastori del Mediterraneo. E assieme a loro volevamo lanciare questo progetto affinché poi ci presentassimo uniti a Bruxelles e porre le questioni della pastorizia del Mediterraneo. Sul vostro sito internet però c'è un volantino, diciamo, che avreste penso distribuito ai cittadini romani, agli automobilisti e così via, quindi c'era un intento di manifestare oltre a quello della conferenza stampa? No, si trattava di un sit-in davanti al ministero, niente di più, era un volantino che serviva per attirare l'attenzione e spiegare le nostre problematiche a più persone possibili. Sì. Sempre sul sito, perché siete dotati di un ottimo sito, se chi è all'ascolto vuole dare un'occhiata, c'è anche un richiamo al basta con i cortei, facciamo azioni lampo, azioni blitz che meglio si impongono al pubblico. Questa non è riuscita fino in fondo, ma è riuscita in un altro senso, comunque ha fatto scalpore. Non era quello, questo non si trattava di nessun blitz, si trattava di una conferenza stampa sulla capitale. I blitz li faremo più avanti, li faremo a Madrid, li faremo a Parigi, li faremo ad Atene, li faremo a Iaccio e così via. Insomma, perché il nostro ormai è un problema di tutto il Mediterraneo. Questo è un problema che noi dobbiamo allargarlo, dobbiamo portarlo in comunità europea affinché si apra un tavolo stabile sulle problematiche del comparto agropastorale. Felice Floris, la ringrazio molto, ci ritroveremo in qualche altra occasione sperando di avere più fortuna con il telefono. Buona giornata, auguri per l'anno nuovo. Grazie a voi, arrivederci. E adesso andiamo a sentire il nostro bianco o nero. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Ed eccoci qua, come dicevamo, oggi il presidente del Brasile Lula da Silva si pronuncerà sull'estradizione o meno in Italia dell'ex terrorista rosso dei PAC Cesare Battisti, attualmente in carcere in Brasile. La nostra domanda è, voi che ne pensate? Battisti deve tornare in Italia a scontare i 4 ergastoli inflittigli per altrettanti omicidi commessi a fine anni 70? Per rispondere c'è il nostro sito internet, per chiamarci 800 24 00 24 oppure anche 349-238-6666 per i nostri messaggi. In studio do il benvenuto a Daniele Biacchessi. Benvenuti anche ai nostri ascoltatori. Daniele, da te ci aspettiamo un inquadramento storico, perché tu appunto di questo sei un grande esperto, quindi vediamo con te che cosa accadeva in quegli anni. Ma infatti diciamo che quando si parla di vicende così lontane nel tempo è sempre bene mettere a punto una serie di dati. Innanzitutto ricordare che dal 1969 ad oggi ci sono stati 4.087 persone che sono state condannate in via definitiva per banda armata, per associazione sovversiva, per insurrezione contro i poteri dello Stato, ma anche omicidi, ferimenti, furti, rapine, reati più o meno gravi, comunque collegati all'attività di gruppi armati di sinistra. 131 i morti, le persone assassinate, più di 2.000 le persone ferite. Sto contando anche gli ultimi gruppi, quelli cioè responsabili degli omicidi di Marco Biagi e di Massimo D'Antona. 71 sono stati militanti uccisi in conflitti a fuoco con le forze dell'ordine durante la preparazione di attentati, di rapine di autofinanziamenti. Molti sono morti all'estero. Altri invece, a decine, diciamo intorno ad un centinaio, sono ancora ricercati dalla giustizia italiana e sono sfuggiti alla giustizia soprattutto dopo il 1980, dopo la stagione, cioè dei grandi pentimenti iniziati da due personaggi, uno era Patrizio Peci delle Brigate Rosse, l'altro era Marco Barbone, responsabile lui dell'omicidio di Walter Tobagi, editorialista del Corriere della Sera. Uno di questi è Cesare Battisti, che è stato il leader dei PAC, Proletari Armati per il Comunismo. Ora il Brasile vorrebbe concedere a lui lo status di rifugiato, ma vorrei ricordare ai nostri ascoltatori chi è Battisti e soprattutto di che cosa viene accusato. Dunque, lui è stato uno dei fondatori di questo gruppo che si era formato nel 77 nel quartiere milanese della Barona, sulla scia del movimento autonomo e anche nel quadro di un dibattito che era avvenuto all'interno di alcune carceri speciali, sollecitato da una rivista che si chiamava Senza Galere. Le azioni di esodio sono tutte gravissime, le rivendicazioni poi eseguite per gli omicidi del gioielliere per Luigi Torregiani e del maresciallo e del macellaio Lino Sabbadini, che sono avvenuti lo stesso giorno, il 16 febbraio del 79, a Milano e in Veneto, a Santa Maria di Sala. L'uccisione del maresciallo degli agenti di custodia Antonio Santoro, avvenuta a Udine il 6 giugno del 1978, poi l'agente della Digos Andrea Campagna, avvenuta a Milano il 19 aprile del 79, vari ferimenti tra cui il medico dell'INAM Diego Fava nel 78, il medico del carcere di Novara Giorgio Rossanigo e l'agente di custodia al carcere di Verona Arturo Nigro. Alla fine i tribunali di Milano di Udine e quindi poi anche la Cassazione hanno ritenuto Cesare Battisti responsabile, coideatore e organizzatore degli omicidi Torregiani, Santoro, Sabbadin e Campagna. Per concludere questo ragionamento, le domande sono due. Cosa c'entra innanzitutto lo status di rifugiato politico che viene dato per motivi appunto politici, mi riferisco, non so, agli esuli cileni dalla dittatura di Pinochet, gli esuli argentini dalla dittatura di Videla, gli esuli greci dopo la dittatura dei colonnelli tra il 67 e il 73. E in Italia, nel periodo in cui operava come terrorista Cesare Battisti e come leader dei proletari armati per il comunismo, c'era e c'è ancora oggi fortunatamente una democrazia dove i tribunali hanno funzionato e hanno funzionato anche processando in contumacia, hanno processato persone che sono fuggite dalla giustizia. L'altra domanda è: come fare per chiudere gli anni di piombo? Perché questa è l'altra domanda, l'altro ragionamento che porrei agli ascoltatori. Perché l'Italia diciamo, è l'unico paese al mondo, direi, stiamo parlando di paesi in Europa come la Francia, come la Spagna o come l'Irlanda, dove ci sono stati gruppi, l'ETA, l'IRA, Action Direct, o la Germania della RAF, gruppi armati che hanno diciamo, creato problemi allo Stato, uccidendo funzionari, sequestrando persone. E quindi l'Italia è l'unico paese dove questi anni sembrano non passare mai, cioè un passato, certo, che non passa mai. Un passato che non passa mai. Ospite abbiamo Piero Sansonetti, giornalista, tante altre cose, ma Piero Sansonetti, lei condivide sostanzialmente l'indirizzo del governo brasiliano, cioè quello di non concedere l'estradizione per Cesare Battisti, è così? Io lo spiego. Ecco, perché tra l'altro spiegandolo, diciamo, risponderà anche ai quesiti di Daniele Becchessi. La mia posizione è assolutamente minoritaria in Italia, sono pochissimi che la pensano come me, però io continuo, non ho trovato argomenti per convincermi del contesto. Becchessi ha spiegato molto bene che cosa è successo, manca forse una cosa, mancavano le cifre. No, di destra, non credo. Sansonetti, il collegamento è molto disturbato, magari proviamo a ripristinarlo. Intanto diamo il benvenuto anche a un altro nostro ospite, Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi. Oggi sui quotidiani, ma anche ieri, le agenzie battevano la sua reazione a caldo alla notizia, alle notizie provenienti dal Brasile. Chiedo agli italiani di scendere in piazza, così oggi titola La Stampa. Buongiorno Alberto. Buongiorno a tutti.

l'imparabilità che ha riportato, quindi io trovo ragionevole discutere con lui. Io faccio solo queste osservazioni. I dati che dà Bianchessi sono, Bianchessi ha fatto un'analisi molto interessante di quel periodo, mancava solo una cosa forse, che non è, non credo che comprendesse i dati sul terrorismo nero, perché oltre al terrorismo rosso ci fu un fenomeno sì, meno ampio. Sì, diciamo. Sansonetti, diciamo la mia analisi iniziale riguardava solo la lotta armata di sinistra, è ovvio. Comunque che... ci sono accanto a questo, no, mi interessa dirlo perché nel mio ragionamento conta questo. Cioè, oltre a questi dati, diciamo, cioè, sono dati che sono inferiori, però sempre significativi, del terrorismo nero. Poi ci sono dati ancora del tutto estranei che sono del terrorismo stragista, che non è né quello nero né quello rosso, non si sa, non c'è stata nessuna strage che ha avuto, che si sa di chi l'abbia realizzata, probabilmente c'entrano i servizi segreti. Vabbè, questo diciamo è il quadro. Ora, il quadro che dava Bianchessi, peraltro, diceva che la stragrande maggioranza del terrorismo rosso è stato punito, si tratta mi pare di circa 3.000 che sono stati messi in prigione contro un centinaio che sono sfuggiti. È quasi l'unico fenomeno criminale in Italia che è stato punito in maniera così forte, diciamo così, nel senso che sono stati trovati tutti i responsabili, sono stati sempre trovati i responsabili. La questione di Battisti rientra in quei 100, non si tratta solo di Battisti, si tratta di un centinaio di persone che stanno all'estero. Perché stanno all'estero? Perché la gran parte dei paesi democratici non concede l'estradizione, non la concede il Giappone, non la concede il Brasile, non la concede la Francia, non la concede la Spagna, non la concede sì, la Gran Bretagna. Sansonetti, le chiedo di stringere per una questione di tempi, finito, per tutti. Ho finito, questo è il punto. I grandi paesi democratici non riconoscono il processo italiano di quegli anni basato generalmente solo sulla deposizione dei pentiti. Sulla legislazione italiana di quegli anni non viene considerata sufficientemente attendibile. Noi di questo dobbiamo prenderne atto. Non è un affronto all'Italia, è una discussione che paesi democratici aprono sul funzionamento del nostro diritto in quegli anni. È tutto qui. E così si spiega il fatto che il Brasile non conceda l'estradizione per Battisti. Poi che Battisti sia colpevole o innocente non sono certo io che posso dirlo. Viabilità, torniamo subito dopo. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Giuseppe Cruciani, ben noto agli ascoltatori di questa radio, buongiorno. Ciao. Tu oggi qui non sei ovviamente in veste di conduttore della Zanzara, ma come esperto del caso Battisti, Gli amici del terrorista, chi protegge Cesare Battisti, il titolo del volume che hai scritto. Che ne pensi di tutta questa diffidenza nei confronti della giustizia italiana? No, Sansonetti dice che la questione è sostanzialmente giuridica, cioè che i paesi che non hanno concesso l'estradizione fino adesso ad alcuni terroristi italiani che si trovano all'estero, in particolare alla Francia, ma non solo la Francia, anche il Nicaragua, come sappiamo e come sa benissimo Daniele Bianchessi, in qualche caso l'Inghilterra, ma si è trattato di terroristi neri accusati di banda armata, e qualche altro piccolo paese, lo fanno perché leggono le nostre carte, si rendono conto che in Italia negli anni 70 c'era qualcosa che non andava e poi non concedono l'estradizione. Chiaramente non è così, cioè, sarebbe un mondo ideale, molto bello, in cui questo magari potesse accadere, ma non è così. Cioè, la questione è solo politica, come è solo politica la questione del Brasile. Cioè, per 3 anni abbiamo letto dispacci di agenzie o discussioni, poche in Italia, qualcosina in più in Brasile, in cui sembrava che la questione dovesse essere una questione giuridica, cioè l'esame da parte dei tribunali brasiliani delle carte italiane, ma la questione non è mai stata una questione giuridica, è solo una questione politica, ed è solo per politica, perché un gruppo di intellettuali, politici, scrittori in Italia, in Brasile e in Francia ha molta influenza nei confronti di alcuni decisori della politica, chiamiamoli così, di alcuni ministri, in alcuni casi anche di alcuni capi di Stato, come il caso della Francia, ad aver determinato una situazione del genere. Poi certamente c'è l'appiglio può essere i processi in Italia negli anni 70, l'uomo nero, la CIA, il fantasma di non so che cosa, ma la motivazione è politica. Cioè, l'ala sinistra del Partito dei Lavoratori Brasiliani ha spinto perché non fosse concesso l'asilo politico a Battisti, come una parte del Partito Socialista Francese, sappiamo tutti per quali motivi, ha deciso di non tenere Battisti in carcere in Francia. Ed è il motivo per cui siamo arrivati ad una situazione di questo tipo. La vera domanda è cosa ha fatto l'Italia in questi due anni, in questi tre anni da quando Battisti è stato arrestato in Brasile. Marco, si può rispondere in tanti modi, è anche quello che farà l'Italia in futuro, leggendo le pagine dei giornali di oggi, vedendo le dichiarazioni, qualche intervista qua e là si trova. Marco da Prato vorrei sentire, tra gli indignati per questa soluzione di Lula, come tanti che stanno scrivendo al 349-238-6666, 800-24-0024 per le vostre telefonate. Marco. Buongiorno, perché è indignato? Buongiorno a lei e agli ospiti. Sì, guardi, in pratica mi ha leggermente anticipato il dottor Cruciani, perché ho ascoltato prima il dottor Sansonetti, che peraltro stimo, ma sul quale non sono assolutamente d'accordo sull'analisi da lui fatta del fenomeno. Primo, perché non si può mettere sempre in pista, ma c'erano anche i terroristi neri, ma c'erano forse anche le stragi di Stato. Qui siamo davanti a un personaggio che ha sulle spalle quattro condanne, due condanne per omicidio diretto e due per partecipazione indiretta all'omicidio, e non vedo di cosa stiamo a discutere. Cioè, mi sembra che qui si voglia arrampicarsi sugli specchi per fare delle giustificazioni che non hanno nessun senso. Peraltro sono d'accordissimo con il dottor Cruciani, la decisione del Brasile è esclusivamente politica, la giustizia non c'entra niente, perché il Grand Jury o l'alta corte brasiliana l'autorizzazione all'estradizione l'aveva data sulla base delle leggi brasiliane. Quindi la decisione è esclusivamente politica. In quanto politica, ritengo che sia uno schiaffo a tutta la nazione italiana, in primis alla magistratura italiana. Allora ci dobbiamo intendere: funziona, ha ragione Berlusconi a dire che la magistratura in Italia non funziona, o la magistratura funziona? Perché qui si fa una grandissima confusione: quando ci comoda si tira la giacchetta a sinistra, quando non ci comoda la si tira a destra. I risultati alla fine sono questi. Ecco, ma il problema, come diceva prima Cruciani, e io sono molto d'accordo, è non solo un problema politico, ma è un problema di rapporti tra stati. E i rapporti tra stati fanno capire che l'Italia, al di là di alcuni annunci, mi riferisco al 1982, quindi dall'82 ad oggi, non ha fatto nulla. Cioè, quando dico nulla, perché non mi è dato sapere, tranne quando c'è stata una volontà politica da una parte e investigativa dall'altra di prendersi alcuni terroristi. Mi riferisco a Delle Chiaie piuttosto che a Giovanni Ventura per la destra, e per la sinistra per Sicchetti, ricordo una delle ultime vicende. Ma sul fatto che la polizia, i carabinieri, i servizi segreti conoscono perfettamente gli indirizzi di dove sono alcuni di questi 100 personaggi, su questo non vi è ombra di dubbio. Diciamo che le inchieste lo hanno ampiamente chiarito, però perché non vanno e perché non vengono applicate, e soprattutto perché i governi italiani non hanno fatto nulla per richiedere le estradizioni, e quando l'hanno fatto malamente, senza poi mandarle avanti? Questa è la vera domanda, e questo è, diciamo, profonda indignazione, secondo me, non è tanto e solo sul Brasile, sulla Francia, cioè ognuno fa la sua parte, ma il problema politico principale è quello dei governi italiani dall'82 ad oggi. Sansonetti, la chiamerei a rispondere su questo, che ne pensa? Dunque, no, io avevo citato i terroristi neri perché il rifiuto dell'estradizione riguarda sia i rossi che i neri, per questo avevo citato i neri, ma non piccoli paesi, non si tratta di piccoli paesi, per esempio si tratta del Giappone. Io avevo citato prima i paesi: Giappone, Gran Bretagna, Francia, Brasile, Nicaragua, Svezia, Spagna, sono tantissimi. Ora, anzi, sono veramente pochissimi i casi di terroristi che sono stati espatriati in questi, lo diceva adesso, sono pochissimi. Noi ci dovremmo anche chiedere il perché. Non è che possiamo pensare per forza che la legislazione italiana in quegli anni fosse perfetta, e non è che possiamo pensare per forza che in tutti i paesi un processo che avviene solo sulla base delle dichiarazioni dei pentiti sia considerato attendibile. Non c'è niente da fare, questo non l'è leva nulla alla colpevolezza o all'innocenza di Battisti, leva qualcosa a come si facevano i processi in quegli anni e anche a come funziona la magistratura italiana. Sì, io sono uno di quelli che ritiene che la magistratura italiana non funzioni benissimo, che il garantismo in Italia non sia una gran cosa, e questo non è che lo dico tirando la giacchetta a destra o a sinistra, la tiro da tutte e due le parti, e talvolta mi trovo molto spesso in dissenso fortissimo con la sinistra e molto spesso invece con la destra. Tendo ad essere garantista sempre, sia nei processi a Berlusconi, sia nei processi alla mafia, sia nei processi ai terroristi. Sono contro il 41 bis per la mafia perché lo ritengo illegale. La questione non è semplicemente. In Brasile, chiudo, c'è stata una decisione della Corte 5-4 a favore dell'estradizione. Siccome non c'era la maggioranza qualificata, la parola è passata al Presidente. Il Presidente ha chiesto il parere dell'Avvocatura dello Stato e ha detto che si sarebbe attenuto a questo parere. Dicono le voci, adesso in giornata lo sapremo, che l'Avvocatura dello Stato è stata contraria all'estradizione e che quindi Lula non la darà. È abbastanza semplice. Io non trovo che sia. Ci si può anche indignare perché Torreggiani giustamente si indigna, è convinto che Battisti. Ma non solo Torreggiani si indigna, si indignano anche un po' tutti gli ascoltatori. Il 93% di loro è indignato. Torreggiani, se lei fa una manifestazione di piazza, è un successo a quanto pare. Spesso a me capita, diciamo, di trovarmi in una posizione estremamente minoritaria. Non sono sicuro che trovarsi in una posizione assolutamente minoritaria sia necessariamente prova di colpa, diciamo così. Però lo so, mi rendo conto che la mia posizione è molto minoritaria. Adesso no, mi riferivo a Torreggiani perché stiamo parlando con Torreggiani, perché lui ha detto delle cose che poi io non trovo irragionevoli, comprendo perfettamente la sua indignazione. Credo però che talvolta il diritto, il garantismo è una cosa, è una brutta bestia. Abbiamo gli ultimi minuti, vorrei risentire Giuseppe Cruciani. Giuseppe, ci sei sempre? Sì, ci sono. Sì. No, volevo dire a Piero che io sono d'accordo su molte cose che dice, di solito sul garantismo, per carità, va tutto bene, solo che il garantismo in questo caso è applicato davvero al caso sbagliato, e mi stupisce come Sansonetti, che una persona intelligente, non distingua tra i casi su cui applicare il suo garantismo, la non colpevolezza, il cercare comunque una soluzione che sia la più vicina alla rieducazione, a tutto quello che è previsto nelle nostre leggi. Battisti, se fosse stato catturato in Italia, se fosse in prigione in Italia, sarebbe libero come tutti gli altri che sono stati implicati nelle vicende dei proletari armati per il comunismo, perché sono tutti liberi, chi per dissociazione, chi per i benefici di una nostra legge, di un nostro Stato che sicuramente è stato generoso nei confronti di molti terroristi. Per quello che riguarda poi ancora alcune cose che ha detto Sansonetti, voglio dire che c'è una distinzione di fondo che viene fatta tra chi appoggia Battisti e Sansonetti, diciamo, non è tra quelli più attivi, bisogna dire la verità, che è quella tra chi uccide per motivi, per fare una rapina, per procurarsi del denaro, per procurarsi una dose di droga, diciamo così, e chi uccide per terrorismo. Io trovo che questa distinzione sia insopportabile. In fondo è omicidio. Alla mentalità di chi appoggia Battisti c'è una distinzione tra chi uccide per motivi politici e chi uccide per altri motivi. Io questo trovo che sia davvero insopportabile. Un omicidio è un omicidio, punto. Su questo noi dobbiamo chiudere. Grazie ad Alessandro Longoni in assistenza, a Filippo Aureggi in regia. Grazie a tutti i nostri ospiti. Adesso, come sempre, Oscar Giannino e il Giornale Radio.